Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Ultima puntata ufficiale della stagione, ma in realtà non finisce qui, perché per la prossima settimana vi abbiamo preparato un appuntamento davvero speciale e a sorpresa. Ci occupiamo oggi dei giovani medici che lasciano il paese con una storia emblematica che arriva dalla Gran Bretagna. E per chiudere in bellezza, spazio pure alle vostre lettere con una missiva che ci infonde un po' di ottimismo. La frase della settimana è copyright del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e ci sembra una degna conclusione per questa stagione di Giovani Talenti. Il paese avanza se offre valide opportunità di sbocco e di crescita ai giovani, se permette alle donne di dare serenamente il loro contributo, se non disperde le migliori energie e competenze, se stimola la ricerca e l'innovazione, se assicura piena tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. Così Mattarella. Paradossi d'Italia. Secondo Eurostat, l'Italia conta il maggior numero di persone attive che potrebbero aggiungersi al mercato del lavoro, oltre 3 milioni e mezzo di cittadini che fanno parte della potenziale forza lavoro, supplementare il 14% dell'intera forza nazionale, tre volte sopra la media europea. Sempre secondo Eurostat, il tasso di attività degli italiani, il più basso d'Europa, è persino superato da quello dei cittadini extracomunitari residenti, una tendenza contraria rispetto alla maggior parte dei paesi comunitari. E quanti giovani, viene da chiedersi, ci sono tra questi inattivi? Quanta potenzialità, insomma, sprecata? Andiamo ora a parlare di una categoria che ha visto crescere di molto il tasso di espatrio negli ultimi anni, i giovani medici. A migliaia hanno lasciato l'Italia per andare nella nuova terra promessa, la Gran Bretagna. Mi occupo praticamente di imaging, in particolare tacche e risonanze cerebrali, in uno dei migliori ospedali pediatrici del mondo e sono il più giovane del mio gruppo. Felice D'Arco, 32 anni, è un medico specialista in radiologia, residente nel Regno Unito. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. L'Italia non è un paese per giovani lavoratori, l'ennesima conferma arriva dal Censis che, sebbene sottolinei come tra gli occupati delle nuove generazioni prevalgano i diplomati e i laureati, riscontra che in 4 casi su 10 questi si trovano a svolgere lavori per i quali è richiesto un titolo di istruzione più basso di quello posseduto. Anche tra i laureati 30-34 anni, secondo l'istituto di ricerca, la crisi ha lasciato il segno, il tasso di occupazione è calato in un decennio di ben 6 punti. Quando si parla di attrattività, l'Italia riesce ad attirare solo il 7,4% degli studenti Erasmus, il che ci colloca al 5° posto in Europa come paese di destinazione. Secondo la Commissione europea, sono poco più di 20.000 giovani universitari che hanno scelto la penisola come meta, la metà della Spagna. Ci sovrastano pure Germania, Francia e Gran Bretagna. Lingua difficile, alto costo della vita e mercato del lavoro non esattamente brillante rappresentano ostacoli tuttora importanti. Ci rifacciamo, ma solo parzialmente, come paese di origine degli Erasmus, qui balziamo al 4° posto, superando la Gran Bretagna. Ora parliamo di un progetto che punta a combattere la fuga dei nostri migliori talenti all'estero. Lo ha proposto l'AIPE, Associazione Italiana Pressure Equipment, si chiama YES, ce lo spiega il presidente di AIPE, Luca Tosto. Il progetto YES mira a poter catturare l'attenzione dei giovani ingegneri che operano nell'ambito universitario con il massimo dei voti, dando la possibilità a loro e alla stessa azienda che a quel punto andrebbe a invitare ed ospitare questi ingegneri in uno stage importante di 6 mesi, dove la nostra associazione mette a disposizione una quota per sostenere il ragazzo in un percorso formativo, ma anche con un minimo di retribuzione, quindi 700 euro stanziate dalla nostra associazione, che poi possono andarsi a sommare ulteriori fondi che ogni singola azienda che va a ospitare il laureato. E questo percorso, diciamo un percorso di 6 mesi almeno, mette nelle condizioni l'azienda di conoscere appieno ulteriori ingegneri e quindi poter creare quell'unione interessante che la formazione tecnica di un'università con l'impegno all'interno di un'azienda, nel nostro caso aziende metalmeccaniche, che hanno comunque un piglio a livello internazionale oltre il 95-99%. Perché l'idea in qualche modo di far sì che questo progetto vada nella direzione di combattere la fuga dei cervelli e pensate realmente, insomma, possa essere quantomeno una piccola goccia nel mare? Mira a combattere la fuga di cervelli perché non sempre anche i laureati con il massimo dei voti riescono a trovare una degna collocazione nelle varie aziende italiane o quantomeno non essere così ricercati da subito. Studiare all'università in Italia, ricevere un'istruzione superiore nelle strutture pubbliche costa poco, ma gli aiuti finanziari privati sono limitati e il numero degli iscritti è minore rispetto alla media degli stati OCSE, lo afferma un rapporto dell'Organizzazione Internazionale. proposito di università, i costi sostenuti dalle famiglie per la laurea dei figli rappresentano ancora un ottimo investimento per il futuro, con un tasso di rendimento che non è mai inferiore al 30%. Lo sostiene una ricerca Schroeder's Wealth Management riportata dal Sole 24 Ore. I numeri dicono che a fronte di un costo totale di 31.750 euro per una laurea quinquennale e di uno stipendio medio annuo di 16.800, il tasso di rendimento che ne risulta è pari al 53%. Buone notizie per chiudere: sono iniziate al CNR le procedure per assumere 82 giovani in aree scientifiche identificate dalla ricerca europea come strategiche, un significativo segnale di inversione di tendenza, ha spiegato Massimo Inguscio, presidente CNR, e sono 10.000 le candidature dei dottori di ricerca che aspirano a lavorare in azienda nell'ambito del progetto PhD eTalents. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta in un paese anglosassone, meta ormai classica di immigrazione. Chiudiamo la stagione facendo tappa in Gran Bretagna, nazione tra le più visitate dalla nostra trasmissione nell'ultimo anno. Nome: Felice. Cognome: Darko. Età: 32. Città di origine: Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno. Studi: liceo classico prima, poi medicina e chirurgia all'università Federico II di Napoli, infine radiologia sempre a Napoli. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2011. Per andare dove? In Belgio. Perché? Perché volevo approfondire alcuni aspetti della radiologia. Qual è il lavoro svolge attualmente? Sono neuroradiologo pediatra. Dove? Al Great Ormond Street Hospital di Londra. Tornerai? Sinceramente non lo so, ma lo spero. In Italia spesso non c'è la volontà di creare una classe dirigente preparata e motivata professionalmente ed economicamente, ma solo la tendenza al mantenimento dello status quo e l'appiattimento verso la mediocrità. Così scrivevi alcuni mesi fa, Felice, a giovanitalenti@radio24.it. Non è bastata una crisi, ti chiedo, per farci capire che la nostra classe dirigente a tutti i livelli e in tutti i settori va ammodernata e internazionalizzata? Ovviamente no, io penso che per la crescita di un paese l'apporto dei giovani sia fondamentale, questo perché i giovani hanno più fame di imparare, di confrontarsi, di fare carriera e si adattano meglio ai cambiamenti. Il problema è che l'Italia non è attrattiva per noi, per i giovani, e spesso non vuole essere attrattiva preferendo una classe dirigente vecchia e espandendo il periodo della gavetta a tempi biblici. La seconda cosa che hai detto è forse ancora più grave della prima: non vuole essere attrattiva. All'università studi medicina a Napoli, perché hai scelto questa strada? Quasi per caso, mio padre dirige una media azienda, io sono figlio unico, ma non volevo assolutamente fare qualcosa in cui non mi sentivo portato, per cui ho provato il concorso nel 2002 che era molto competitivo, sono stato abbastanza fortunato da entrare e adesso eccomi qua. La mia esperienza universitaria non è stata molto positiva, ricordi, e il problema sta ancora tutto nello iato tra preparazione teorica e preparazione pratica, ci spieghi meglio? La mia impressione è che le università italiane non associano una preparazione teorica a un'adeguata esperienza pratica. Un'esperienza pratica adeguata significa che deve essere organizzata in base alle esigenze di mercato, e questa cosa si vede anche nel nostro settore, dove i giovani medici non hanno l'esperienza pratica sul campo quando finiscono l'università, la stessa esperienza che hanno negli altri paesi europei. Dopo la laurea col massimo dei voti opti per entrare nella specializzazione di radiologia, sempre nel capoluogo campano. Perché questa specializzazione e poi quanto è stato difficile vincere il concorso? Rimasi molto colpito, ricordo, da una lezione del professore di neuroradiologia della mia università, era molto tecnica, ben strutturata, impostata sul modello anglosassone, per cui essendo in un periodo in cui dovevo scegliere cosa fare dopo, chiesi un colloquio con lui, alla fine chiesi la tesi nel dipartimento di radiologia. Il concorso è stato molto competitivo, nel senso che solo il 10% degli iscritti venivano poi ammessi. E tu ce l'hai fatta? Anche se adesso il concorso è nazionale, non è più le singole università, io penso che questa sia la strada giusta da intraprendere. Dopo il primo anno e mezzo ho sentito l'esigenza di andarmene, ricordi? Determinante la tua voglia di sperimentare realtà esterne, aprirti al mondo, e determinante è stato anche il supporto del tuo professore. Dove ti ha mandato e grazie a quale programma formativo? Allora, vado in Belgio a partire dal terzo anno di specializzazione nel modernissimo ospedale universitario di Lovanio, che è nella parte fiamminga del Belgio. Grazie al supporto di nuovo del professore di neuroradiologia e poi del direttore della radiologia, sfrutto l'opportunità che hanno tutti gli specializzandi di recarsi un massimo di un anno e mezzo in una struttura esterna, italiana o estera. In Belgio non solo ha approfondito alcuni aspetti specifici della radiologia, ma ha avuto un'esperienza importante dal punto di vista umano e di apertura mentale. Ti chiedo, andare a formarsi all'estero è un'esperienza imprescindibile oggi per un giovane? Secondo me assolutamente sì, perché amplia gli orizzonti e poi permette di valutare in modo critico cosa funziona e cosa non funziona in Italia. Purtroppo devo constatare che molti dei miei colleghi hanno sfruttato questa opportunità, ma pochi poi sono tornati in Campania. Questo è il problema. In Italia torni per i restanti 2 anni di specializzazione, nei quali unisci attività clinica e pubblicazione di articoli scientifici. Sfrutti la possibilità di fare un altro periodo di formazione a Brescia, dove ti trovi a lavorare con professionisti di altissimo profilo, poi applichi per una fellowship all'ospedale St. Kitts di Toronto. Per cosa ti candidi e cos'è un fellow? Allora, mi candido per una fellowship in neuroradiologia pediatrica. Un fellow è un grado intermedio tra lo specializzando e il consultant, che sarebbe l'equivalente del dirigente medico in Italia. Di fatto una fellowship permette di acquisire una subspecializzazione, che nel mio caso è quella di neuroradiologo pediatra. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Il colloquio lo feci via Skype in uno dei più importanti ospedali pediatrici al mondo, ricordi oggi quasi incredulo, ma le riflessioni più illuminanti riguardano l'ambiente di lavoro che trovi a Toronto. La prima ha a che vedere con la loro capacità di scegliere i migliori senza finire col prendere qualche figlio di. Come fanno? Allora, i grandi ospedali canadesi hanno creato un circolo virtuoso, cioè un ospedale di livello internazionale ovviamente attrae persone che sono interessate a imparare a lavorare duro, quindi l'ospedale mette a disposizione delle ottime borse di studio e in cambio sceglie i migliori giovani professionisti che lavorano duro per completare la fellowship, e tra questi poi spesso seleziona i futuri componenti del loro staff permanente. Le fellowship sono decine sia in Canada che in generale nel mondo anglosassone, e creano forza lavoro di alto livello con un investimento minimo. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia, ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia, di Sebastiano Barisoni, da lunedì a venerdì alle 17, solo su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Felice D'Arco, 32enne medico specialista in radiologia, da Napoli al Belgio, in Canada e in Gran Bretagna. Una storia davvero medico globetrotter, quella di Felice, che all'estero ha appreso l'importanza della meritocrazia, della trasparenza e del confronto con altre culture e metodologie. Scopre anche come ci siano paesi che investono sui propri giovani medici mandandoli fuori a studiare col vincolo di tornare. Modelli che andrebbero copiati. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. Poi scopri che ci serve anche da copiare dai paesi arabi. Come investono sui loro talenti della medicina che studiano oltre confine e quale vincolo pongono loro? Questo è molto interessante. Nei decenni passati i paesi arabi hanno cercato di colmare il gap tecnico-scientifico che avevano quei paesi occidentali, assumendo professionisti dall'estero che ovviamente erano pagati tantissimo e rimanevano per un tempo limitato. Negli ultimi anni questi stessi paesi hanno trovato, diciamo, una soluzione alternativa e penso più vantaggiosa, cioè forniscono la borsa di studio ai propri fellow e in più pagano l'ospedale, in questo caso canadese, che li ospita, e in cambio i giovani professionisti devono obbligatoriamente tornare nei paesi di origine alla fine della fellowship. Così facendo l'ospedale canadese ha forza lavoro di alto profilo, ma ne ricava anche un introito, mentre i paesi di origine ne ricavano giovani professionisti formati in strutture internazionali. Praticamente vincono tutti. È una win-win situation. Alla fine della tua esperienza a Toronto torni in Europa, ma non in Italia, e vieni assunto all'ospedale pediatrico Great Ormond Street di Londra. Hai un contratto a tempo indeterminato, con che ruolo? Sono neuroradiologo pediatra di ruolo e mi occupo praticamente di imaging, in particolare tacche e risonanze cerebrali, in uno dei migliori ospedali pediatrici del mondo, e sono il più giovane del mio gruppo. Allora, in Italia tu ci vorresti tornare, ma il contesto con cui ti confronti appare a volte un po', scusa la franchezza, da barzelletta. Nonostante il tuo curriculum internazionale, quante risposte hai ricevuto dalla penisola ai tuoi curricula e quante invece da altri paesi europei? Allora, l'unica offerta competitiva l'ho ricevuta da una struttura privata e ho deciso di rifiutarla per motivi personali più che professionali, però Tutti i grandi ospedali pubblici che ho contattato non mi hanno nemmeno risposto, mentre ho avuto altre offerte dall'estero, specialmente dal Belgio, che ho rifiutato preferendo rimanere a Londra. Tra l'altro, in tema di concorsi pubblici, ti sei scontrato con una situazione medievale, no, in Italia? L'unico concorso pubblico cui mi sono candidato circa un anno fa, per questo concorso mi è stato chiesto di mandare via posta un plico con tutte le mie pubblicazioni stampate, circa un centinaio di pagine. Ora, considerando che le pubblicazioni scientifiche di livello internazionale, cosiddette impattate, sono consultabili online su un sito che si chiama PubMed, la cosa è stata abbastanza scioccante. Davvero, estremamente scioccante. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? Penso che l'Italia sia un paese non competitivo in termini di offerte di lavoro, con grossi problemi burocratici e culturali, però ci sono degli eccedenti ospedali nonostante le mille difficoltà del sistema Italia, e io sono in generale positivo, nel senso che un cambio di rotta è possibile se si fanno gli investimenti giusti. Ci raggiunge ora in linea Martino Trapani, fondatore del segretariato italiano Giovani Medici. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Martino, quanto ritrovi della storia di Felice in quelle di tanti altri colleghi medici emigrati? Dire la verità che è la consuetudine di tanti colleghi che si recano all'estero, perché oggigiorno il sistema italiano non è per niente competitivo, nonostante ci sono delle numerose eccellenze, diciamo un po' macchia di leopardo, principalmente sono sulla zona nord del paese, però sicuramente ci sono medici di altissimo livello. Il problema è che non ci sono i meccanismi giusti per diciamo valorizzare i giovani e farli inserire ad alti livelli anche nella professione medica. Allora, il fenomeno dei medici italiani che migrano, giovani medici soprattutto, è paradossale in una società che invecchia, che avrà sempre più bisogno di forza lavoro in quel settore. È difficile calcolare i numeri con esattezza, ma cosa sappiamo su di loro e quali sono i paesi più gettonati? I paesi più gettonati sono sostanzialmente la Germania, i paesi nordici, Danimarca, Svezia e soprattutto la Gran Bretagna. E qui ti fermo. Perché è così attrattiva? È molto attrattiva sia sicuramente per la possibilità di crescita e carriera, perché la maggioranza dei colleghi che si trovano nel settore sanitario, quindi come medici, sono molto giovani, gli danno la possibilità subito in poco tempo di arrivare a livelli apicali, e condivido perfettamente la linea, perché uno, un professionista giovane, ha più energie e rende sicuramente di più e ha delle ottime idee e nuove idee come innovatore, quindi bisogna dare la possibilità ai giovani di stare nelle posizioni apicali. Però non è solo questo, l'altro aspetto è legato sostanzialmente al discorso dei contratti, quindi da avere un rapporto, diciamo, immediatamente contrattuale garantito, cosa che in Italia mi spiace ma non è sempre così, e poi gli stipendi che sono almeno 2-3 volte più alti dell'Italia. Infatti all'inizio del 2014 in Inghilterra, solo nel Regno Unito, ci sono circa 3.000 medici italiani iscritti all'ordine non dei sono medici inglese. Assolutamente pochi, e tra l'altro aggiungo, spesso li vengono anche a prendere e reclutare direttamente in Italia. Assolutamente sì, assolutamente allora, sì. Grazie a Martino Trapani, in bocca al lupo per il tuo lavoro. E domanda di rito per Felice D'Arco: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Il mio consiglio è scegliere con cura dove recarsi. Non si tratta solo di andare all'estero, ma di muoversi per migliorare il proprio profilo professionale in modo mirato alle esigenze di mercato e ai propri interessi culturali. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi abbiamo deciso di dedicarla alle posizioni post-doc attualmente aperte in Europa. E allora, per i ricercatori in ascolto, vi segnaliamo. Un ricercatore post-doc nel gruppo di ricerca della farmacologia dei sistemi computazionali all'Università di Turku in Finlandia, scadenza per il CV 31 luglio, info su uto.fi. Un ricercatore post-doc in glaciologia antartica all'Università di Bristol, Gran Bretagna, scadenza per il CV 30 giugno, info su bristol.ac.uk. E infine un post-doc in ecotossicologia acquatica all'Università di Uppsala, in Svezia, scadenza per il CV 1 luglio, info su epi-resource.sru.se. Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Chiudiamo la stagione con un messaggio di speranza e di ottimismo, quello che ci invia la nostra ascoltatrice Maria Chiara. È una ricercatrice che ha deciso di puntare sull'Italia ed è lei stessa a spiegarci come e perché. Ascoltate con attenzione. tornavo dal viaggio ad Istanbul per festeggiare i miei 30 anni, poco più di un anno fa, quando ricevetti la notizia di aver vinto un finanziamento dello European Research Council, 1,5 milioni di euro per la mia ricerca sui testi latini su papiro. Avrei voluto urlare, ma ero in aeroporto e non avrebbero capito. 2 anni prima avevo vinto un concorso come ricercatore a tempo determinato in lingua e letteratura latina alla Federico II, dove mi ero formata e che avevo dovuto lasciare subito dopo la laurea. Un dottorato in una scuola d'eccellenza italiana e poi esperienza postdottorale tra Belgio e Francia, con una breve puntata in qualche liceo partenopeo e una serie di missioni di ricerca e visiting fellowships da Berlino a New York a Pisa. Tra Facebook, cervelli in fuga, meglio gioventù e pensieri che si sono accalcati sulla stampa nei mesi scorsi, da quando la collega Roberta D'Alessandro ha espresso le sue riflessioni al ministro Giannini, aggiungere dell'altro è superfluo, se non altro perché si disperderebbe in un affastellamento di opinioni e si scadrebbe nella ripetizione. Vorrei soltanto sottolineare una cosa, che a noi vincitori di ERC è fin troppo nota perché la ignoriamo. Uno dei principi fondamentali del nostro finanziamento è la portabilità del grant. Ci dà la possibilità di spostarlo in una università diversa da quella per cui abbiamo chiesto il finanziamento, previo accordo della nuova università e dello European Research Council. È uno spostamento non sempre scontato né immediato, ma possibile. Riflettere sulle ragioni di chi resta o chi torna è necessario. Ragionare per paradigmi è banale. Perché c'è ancora chi crede che il cambiamento sia possibile e il cambiamento non nasce se non dall'interno di un sistema. È forse, talora, anche un'operazione di resistenza, intellettuale e spesso culturale. Ma io voglio provarci. Un motivo per restare o tornare. C'è anche chi in Italia ci viene e a fare impresa. Parliamo ancora di numeri piccoli. A inizio maggio erano 62 gli stranieri beneficiari dello Startup Visa, il visto agevolato previsto dalla nostra legislazione per imprenditori extracomunitari che intendono venire nella penisola a impiantare imprese innovative. In testa gli arrivi la Russia con 22 startuppers, seguita dall'Ucraina 10 e dagli Stati Uniti 7. Sul fronte delle startup innovative autoctone, stando ai dati infocamere, erano oltre 5.000 quelle iscritte al registro ufficiale, quasi una su 4 a prevalenza under 35. Una su 5 si trova in Lombardia, 28.000 gli occupati, ma solo 70 milioni di venture capital investito. Manca insomma ancora l'ossigeno necessario a far crescere questo settore. Per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti o nella pagina Giovani Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Italia Place to Be. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Interactive, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda, la discussione di giugno, buoni propositi per l'estate. Scriveteci un'idea per rendere l'Italia più attrattiva, il luogo dove essere, the place to be. Invito rivolto a chi medita di andarsene e a chi invece vorrebbe tornare a vivere e lavorare qui. Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Approfittate anche dell'estate per farlo. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24 per una puntata speciale che chiuderà ufficialmente la stagione, prima della nostra versione estiva che partirà il 9 luglio. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.